E mi dicono che adesso è tutto a posto, ma qua la verità è che la libertà ha un costo. Troppo spesso è alto e dipende dalla richiesta, ma se non è esaurita allora scatta la protesta. Se lavoriamo lo facciamo per un anno, postiamo nella strada senza prospettive veri, e il nostro futuro che adesso vive nel danno. Passiamo nelle mani di chi pensa allo share e si comporta da ser, ma il seguace di Meller è dentro un lager, vuole chi non è nato in Italy, perché non c'ha tolleranza, non conosce fratellanza, pensa solo alla violenza che spinge con veemenza contro quelli che ora vivono in 10 dentro una stanza, stranieri senza vacanze, sebbene perché così in disoccupazione, migranti nella nazione che ora vengono umiliati perché arrivati fin qui. C'è chi vende l'accendino, chi lava il finestrino, c'è chi è senza famiglia e chi invece ancora è bambino, c'è chi si sente chiuso e messo dentro un altro forno. Ha vuole una battaglia civile come a Rosarno. Quello che mi dicono è di non pensarci, perché non c'è nulla che ora può salvarci. Quello che mi dicono per me non ha senso, perché qui il silenzio equivale solo a un consenso. Quello che mi dicono è di non pensarci, perché non c'è nulla che ora può salvarci. Quello che mi dicono per me non ha senso, perché qui il silenzio equivale solo a un consenso. Insistono e mi dicono che qui è tutto a posto, ci passano il mafioso per il perso ragionesto. È colui che ha visto per gli altri non fa mai testo, in quanto alla prova viene fatta fuori presto. Dai papà, stai tranquillo e non pensarci, ma c'è una coscienza che ci pensa e devo starci. Dovremmo incazzarci quando vogliono controllarci, oppure seguirci con la pattuglia dei Ross, solo perché non vestiamo fighetti come Romosso, oppure perché siamo scuri come Diana Ross. Ci vuole unione per gli esteri, quella è forza. La rivoluzione la si fa senza corazza, a faccia scoperta, con la testa alta, senza alcuna bugia, nell'ipocrisia di gente scaltra. Siamo simili, invisibili tra noi, in parte siamo uguali anche se criminali o gay. Anche se abbiamo nella pelle più color o melanina, non è questo che ci inquina, non ci rovini nei rei. Ma le cose che non vanno io mi danno per un grammo, qui ti arrestano e ti ammazzano come a Stefano Cucchi. E io ci penso anche se per te non ha senso, non chiudo l'orecchio e la bocca e nemmeno i miei occhi. E tu mi dici di non pensarci, marci, marci sopra i guai. E se mi dici di non pensarci è che ci marci sempre ormai. Quello che mi dicono è di non pensarci, perché non c'è nulla che ora può salvarci. Quello che mi dicono per me non ha senso, perché quel silenzio equivale solo a consenso. Quello che mi dicono è di non pensarci, perché non c'è nulla che ora può salvarci. Quello che mi dicono per me non ha senso, perché quel silenzio equivale solo a consenso. Quello che mi dicono è di non pensarci, perché non c'è nulla che ora può salvarci. Quello che mi dicono